E questa, in effetti, fu la cosa singolare che capitò prima che io cominciassi il mio libro, il che avvenne in una forma che non avrei mai immaginata. Mi trovarono, una sera che ero uscito, un aspetto migliore del solito, e si stupirono che avessi ancora tutti i capelli neri. Ma, scendendo le scale, fui 3 volte sul punto di cadere. Non rimasi fuori più di 2 ore, ma una volta tornato a casa sentii che non avevo più memoria, né pensiero, né forza, né esistenza alcuna. Fossero venuti a trovarmi, a proclamarmi re, a portarmi via, ad arrestarmi, li avrei lasciati fare senza dire una parola, senza aprire gli occhi, come quelle persone che, colpite dal più terribile mal di mare mentre attraversano in nave il Mar Caspio, non accennano il minimo gesto di resistenza se qualcuno le avverte che stanno per buttarle in mare. Non avevo, propriamente parlando, alcuna malattia, ma sentivo che non sarei stato più capace di niente, come succede a quei vecchi che, arzilli il giorno prima, a causa della frattura del femore o di un'indigestione, trascinano ancora per qualche tempo nel loro letto un'esistenza. È diventata solo una preparazione più o meno lunga a una morte ormai ineluttabile. Uno dei miei io, quello che andava un tempo a quei festini barbarici che vengono chiamati pranzi, e dove per gli uomini in bianco, per le donne seminude e impennacchiate, i valori sono a tal punto rovesciati che chi non arrivi dopo aver accettato l'invito, o semplicemente arrivi solo all'arrosto, commette un atto più colpevole delle azioni immorali di cui durante tali pranzi si parla, come delle morti recenti, con leggerezza, e per poter mancare ai quali le uniche scuse sono la morte o una malattia grave, a patto di avvertire in tempo che si è moribondi, onde consentire l'invito d'un 14°. Questo io aveva serbato in me i suoi scrupoli e perduto la sua memoria. In compenso, l'altro io, quello che aveva concepito la sua opera, si ricordava. Avevo ricevuto un invito da Madame Molé e saputo che il figlio di Madame Sazerat era morto. Avevo deciso di impiegare una delle ore, dopo le quali non potevo più pronunciare parola, la lingua legata come la nonna durante la sua agonia, né inghiottire un sorso di latte, a inviare le mie scuse a Madame Molé e le mie condoglianze a Madame Sazerat. Ma pochi istanti dopo avevo dimenticato che dovevo farlo. Felice dimenticanza, perché la memoria della mia opera vegliava e avrebbe impiegato l'ora di sopravvivenza che m'era concessa a porre le prime fondamenta. Purtroppo, nel prendere un quaderno su cui scrivere, mi scivolò accanto il biglietto d'invito di Madame Molé. Subito l'io dimentico, ma che aveva la preminenza sull'altro, come accade in tutti i barbari scrupolosi che vanno ai pranzi, respinse il quaderno e scrisse a Madame Molé, la quale, del resto, se lo avesse saputo, avrebbe senz'altro apprezzato che io avessi messo la risposta al suo invito prima del mio lavoro d'architetto. Di colpo, una parola della mia risposta mi ricordò che Madame Sazerat aveva perduto il figlio. Scrissi anche a lei, dopodiché, sacrificato così un dovere reale, all'obbligo fasullo di mostrarmi educato e sensibile, ricaddi senza forze, chiusi gli occhi, destinato per 8 giorni a non far altro che vegetare. Eppure, se tutti i miei doveri inutili, cui ero pronto a sacrificare quello vero, mi uscivano dalla testa dopo pochi minuti, l'idea della mia costruzione non mi abbandonava un solo istante. Non sapevo se si sarebbe trattato d'una chiesa dove dei fedeli avrebbero potuto a poco apprendere verità e scoprire armonie, il grande progetto d'insieme, o d'un qualcosa destinato a restare per sempre infrequentato come un monumento druidico sulla sommità di un'isola. Ma ero deciso a consacrarvi le mie forze, che svanivano come a malincuore e come se avessero voluto lasciarmi il tempo portata a termine la struttura perimetrale, di chiudere la porta funeraria. Presto fui in grado di mostrare qualche abbozzo. Nessuno ci capì niente. Anche chi fu favorevole alla mia percezione delle verità che intendevo poi incidere nel tempio, si rallegrò che le avessi scoperte al microscopio, quando era invece di un telescopio che m'ero servito per scorgere cose piccolissime, è vero, ma per il fatto d'essere situate a una grande distanza, e ciascuna delle quali era un mondo. Mi si chiamava collezionista di particolari, mentre erano le grandi leggi che cercavo. D'altronde, perché mai lo facevo? Avevo avuto da giovane qualche facilità e Bergotte aveva trovato perfette le mie pagine di liceale. Ma anziché lavorare, ero vissuto nell'indolenza, nella dissipazione dei piaceri, nella malattia, le cure, le manie, e intraprendevo la mia opera alla vigilia della morte, ignorando tutto del mio mestiere. Non mi sentivo più la forza di far fronte né ai miei obblighi con gli esseri, né ai miei doveri verso il mio pensiero e la mia opera, tantomeno agli uni e agli altri insieme. Quanto ai primi, l'oblio delle lettere da scrivere, eccetera, mi semplificava un po' le cose. Ma di colpo, dopo un mese, l'associazione delle idee faceva affiorare il ricordo dei miei rimorsi ed ero oppresso dal senso della mia impotenza. Fui stupito che non me ne importasse nulla, ma il fatto è che dal giorno in cui, scendendo le scale, m'erano tanto tremate le gambe, non mi importava più di niente. Non aspiravo più che al riposo, in attesa del grande riposo che avrebbe finito col venire. Non era perché rinviassi a dopo la mia morte l'ammirazione che si sarebbe dovuta provare, mi sembrava, per la mia opera, se ero indifferente ai consensi dell'elite attuale. Quella di dopo la mia morte pensasse quel che voleva, non me ne importava di più. In realtà, se pensavo alla mia opera e non alle lettere cui dovevo rispondere, non era neanche più perché scorgessi fra le due cose, come ai tempi della mia indolenza e poi ai tempi del mio lavoro, sino al giorno in cui avevo dovuto aggrapparmi alla ringhiera delle scale, una grande differenza d'importanza. Se l'organizzazione della mia memoria, delle mie preoccupazioni, era legata alla mia opera, era forse perché, mentre le lettere ricevute le dimenticavo dopo un istante, l'idea della mia opera mi stava dentro la testa, sempre la stessa, in perpetuo divenire, ma mi era diventata anch'essa importuna. Era per me come un figlio di cui la madre morente deve imporsi ancora fra le iniezioni e le ventose e la fatica d'occuparsi. Forse lo ama ancora, ma se ne accorge soltanto dall'estenuante dovere di occuparsi di lui. In me le forze dello scrittore non erano più all'altezza delle esigenze egoistiche dell'opera. Dal giorno delle scale, niente della vita di società, nessuna gioia, venisse dall'amicizia delle persone, dal progresso della mia opera, dalla speranza, della gloria, giungeva più sino a me se non come un sole così pallido che non aveva più la virtù di riscaldarmi, di farmi vivere, di ispirarmi un qualsiasi desiderio. Eppure, livido com'era, era ancora troppo brillante per i miei occhi che preferivano chiudersi, e mi voltavo verso il muro. Mi sembrava, per quel che potevo percepire del movimento delle mie labbra, d'avere un sorrisino a un infimo angolo della bocca quando una signora mi scriveva: «Sono davvero stupita che non abbiate risposto alla mia lettera». Non di meno, questo mi ricordava la sua lettera, e le rispondevo. Volevo cercare, perché non mi si credesse ingrato, di mettere la mia gentilezza attuale al livello della gentilezza che gli altri avevano avuta per me, ed ero schiacciato dal dover imporre alla mia esistenza agonizzante le fatiche sovrumane della vita. Mi aiutava un poco la perdita della memoria, creando dei vuoti fra i miei obblighi. La mia opera li colmava. Questa idea della morte si insediò definitivamente dentro di me, come fa un amore. Non che amassi la morte, la detestavo. Ma dopo averci pensato, di tanto in tanto, come si pensa a una donna che ancora non si ama, adesso il suo pensiero aderiva così completamente allo strato più profondo del mio cervello, che non potevo occuparmi d'una cosa senza che questa cosa attraversasse innanzitutto l'idea della morte. E anche se non mi occupavo di niente e rimanevo in un riposo completo, l'idea della morte mi teneva una compagnia non meno incessante dell'idea di me stesso. Non penso che il giorno in cui ero diventato un semimorto fossero stati gli incidenti da cui ciò era stato caratterizzato, l'impossibilità di scendere le scale, di ricordare un nome, di alzarmi, a suscitare attraverso un ragionamento magari inconscio l'idea della morte. L'idea che ero già quasi morto, ma piuttosto che le due cose fossero avvenute contemporaneamente, che il grande specchio dell'opera riflettesse inevitabilmente una realtà nuova. Eppure non vedevo come dai mali che avevo si potesse passare senza accorgersene alla morte completa, ma pensavo allora agli altri, a tutti quelli che muoiono ogni giorno senza che lo iato fra la loro malattia e la loro morte ci sembri straordinario. Pensavo anche che era solo perché li vedevo dall'interno, più ancora che per gli inganni della speranza, che certi malesseri, sebbene credessi alla mia morte, presi uno per uno, non mi sembravano mortali, così come anche chi più è persuaso che sia venuta la sua ora, si lascia non di meno facilmente persuadere che se non riesce a pronunciare certe parole, ciò non ha nulla a che vedere con un attacco, con l'afasia, eccetera, ma dipende da un affaticamento della lingua, da uno stato nervoso analogo alla balbuzie, dalla spossatezza conseguente a un'indigestione. Era ben altro che dovevo scrivere io, qualcosa di più lungo e per più di una persona, lungo da scrivere. Di giorno al massimo avrei potuto tentare di dormire. Se avessi lavorato, sarebbe stato solo di notte. Ma ci sarebbero volute molte notti, forse 100, forse 1000. E sarei vissuto nell'ansia di non sapere se il padrone del mio destino, meno indulgente del sultano Shahriar, quando al mattino avesse interrotto il racconto, avrebbe voluto soprassedere alla mia condanna a morte e consentirmi di riprenderne il filo la sera successiva. Non che pretendessi di rifare in alcun modo le 1001 notte, e nemmeno i memoir di Saint-Simon, scritti anch'essi di notte, o qualcun altro dei libri che avevo amati nella mia ingenuità di fanciullo, superstiziosamente legato ad essi come ai miei amori, e incapace di immaginare senza orrore un'opera che ne fosse diversa. Ma, come l'Estir con Chardin, si può rifare ciò che si ama solo rinunciandovi. Un giorno anche i miei libri, come il mio essere di carne, avrebbero certo finito per morire, ma bisogna rassegnarsi a morire. Si accetta il pensiero che fra 10 anni noi, fra 100 anni, i nostri libri non ci saremo più. La durata eterna non è promessa ai libri più che agli uomini. Sarebbe stato un libro lungo forse come le 1001 notte, ma completamente diverso. Certo, quando si è innamorati di un'opera, si vorrebbe rifare qualcosa di affatto simile, ma bisogna sacrificare il proprio amore del momento, non pensare ai propri gusti, ma a una verità che non vuol sapere le vostre preferenze e vi proibisce di pensarci. E solo seguendola ci si trova a volte ad incontrare ciò che si è abbandonato e ad aver scritto, dimenticandole, le novelle arabe o le memorie di Saint-Simon di un'altra epoca. Ma ero io ancora in tempo? Non era troppo tardi.